sio, destin cruel, o qual cadmo novello, o qual giadone, terrar da rubine che le armata vesse, e panciato in quel che di dirvi folto, mutar per fatal sorte, in un svergo l'aratolo, in un campo il solto. Oh, quale dolce sapore mi rigolò.